il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. Ogni cosa che facciamo ha un impatto sull'ambiente in termini di consumo di energia e anche di inquinamento. In questo periodo natalizio questa cosa salta agli occhi di tutti perché vediamo luci, vediamo traffico, gente che corre magari per gli acquisti natalizi, ma vi sono anche poi eventi, concerti, feste, cene e altro, che sono momenti dove si consuma e si inquina anche più del normale. Tra questi eventi ci sono, per esempio, i concerti, come dicevo. C'è ultimamente anche una nuova attenzione sul fare in modo che anche questi eventi siano il più ecosostenibili possibili. Come? Lo chiediamo oggi a Michele Vallerotonda, ingegnere che ha creato un marchio che si chiama Coineco insieme a degli altri colleghi, che nasce proprio per rilasciare in qualche modo una sorta di patentino di attenzione all'ambiente di chi organizza questo tipo di eventi. Intanto benvenuto Michele. Grazie, ciao, buongiorno. Ecco, intanto come è nata questa idea e che cosa fate concretamente come Coineco? Ma guarda, l'idea è nata tanto tempo fa, nel senso che è una passione che coltiviamo da tempo, quella dell'attenzione per l'ambiente, e finalmente siamo riusciti a fare qualcosa di concreto, cioè a racchiudere una serie di attività informative, formative e anche diciamo tecnologiche, per dare la dimostrazione che appunto quello che facciamo ha un impatto sull'ambiente. Per cui oggi quello che facciamo è dare evidenza dell'impatto che le nostre attività hanno sull'ambiente. Prendiamo un esempio, un concerto. Voi lavorate con un coro, che è il Muri Chorus di Padova. Che cosa inquina? Quali sono i punti principali? Allora, il concetto base è questo. Per fare una cosa c'è bisogno di consumare una certa quantità di energia. L'energia viene prodotta in gran parte da petrolio e quindi possiamo dire che ogni cosa che facciamo può essere trasformata in una certa quantità di anidride carbonica immessa nell'aria. Il Movie Chorus da questo punto di vista è attentissimo, perché ogni volta che facciamo una prova in sala prove calcoliamo il numero di chilometri che i coristi percorrono per arrivare in sala prove, e calcoliamo i watt delle lampade che usiamo per le prove e il combustibile per il riscaldamento, e trasformiamo questo monte kilowattora in chili, tonnellate di anidride carbonica emessa. Quindi voi lavorate su tutta l'attività del coro, quindi durante l'anno dalle prove fino ad arrivare ai concerti? Sì, perché il concerto è un evento, è la punta dell'iceberg dell'attività del coro, ad esempio in questo caso, ed è magari quella più visibile, però per arrivare ad un concerto c'è tutto un lavoro a monte che viene svolto, che implica un impatto ambientale. Come dire, facevamo l'esempio prima fuori onda, bere una tazzina di caffè implica consumare 30 centilitri di acqua. In realtà una tazzina di caffè costa 140 litri d'acqua al mondo. Ecco, sempre prima fuori onda mi dicevi appunto che uno che state attenti a tutto, perfino a cosa viene messo nei panini che mangiate durante le prove. Eh sì, perché noi siamo quello che mangiamo, no? E consumiamo anche quello che mangiamo. Un chilo di carne e quindi del prosciutto in un panino ha un impatto ambientale diverso da un pezzo di formaggio, ad esempio, oppure della frutta su un tavolo ha un impatto ambientale diverso se la frutta viene fatta arrivare dalla Cile, come le ciliegie che vanno alla grande, oppure dai colli euganei, come le mele o le pere, oppure da Rubano, come le pere degli alberi che abbiamo piantato 2 anni fa a compensare la CO2 emessa dal coro. Sì, perché alla fine fate un calcolo e in qualche modo poi cercate di compensare facendo un'azione contraria, diciamo. Noi consumiamo, inquiniamo e consumiamo CO2 e piantumando degli alberi si fa l'opposto. Sì. Quindi, e restituiamo l'ossigeno. E quanti alberi avete piantato? Allora, nel corso di questi anni d'attività del coro sono stati piantati circa una 60 d'alberi. calcolati appunto in base alle quantità di CO2 emessa durante i concerti, durante l'attività corale, quindi la progettazione degli eventi. Abbiamo calcolato il numero di volantini che abbiamo stampato, le mail che sono state mandate, una sessantina d'alberi, e siamo molto contenti quando il numero d'alberi che piantiamo si riduce, perché l'attività aumenta, perché le persone che cantano sono sempre di più. Certo. E il numero d'alberi che si riduce implica che siamo stati più attenti durante questa attività. Benissimo, ci fermiamo per qualche minuto, a tra poco. Il quadrifoglio: consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. Now excuse me if I sound rude, but I love the way that you move, and I see me all over you now. Baby, when I look in your eyes, there's no way that I can disguise all these crazy thoughts in my mind now. There's something about you. You got the lock, I got the key. You know the rest, you know just where I wanna be. You got me under. I see fireworks when we touch now. Your body fits on mine like a glove. Let them say whatever they want. It's too late 'cause you're in my blood now. You got the light. Sophisticated, such a pleasure to meet you. Yeah, but here's the only issue. Since we met, you gotta turn my world upside down. Now I don't really mind Spider-Man kissing you, as long as you're planning on sticking around. The happiest boy in the world goes to me. Not a chance, nobody came close to him. I kinda knew you was troublesome. Yeah. You got me wrapped around your finger like bubblegum. Everything that you do, everything you do, everywhere that you move, there's just something about you. There's just something about you. Do everything that you do, everywhere that you move. About you. Torniamo in linea con il quadrifoglio. Oggi stiamo parlando di ecosostenibilità negli eventi tipo concerti e fiere. Lo stiamo facendo con Michele Valle Rotonda di Coineco, questo marchio, diciamo, che nasce da cosa questo nome? Coineco è l'insieme di koiné, che dal greco vuol dire unione, e eco, che richiama l'ecosostenibilità. Ci siamo concentrati sulla ecosostenibilità, quando in realtà le attività umane richiederebbero una sostenibilità oltre che ambientale anche economica, anche sociale. Però diciamo, partendo dalla sostenibilità ambientale, che è un argomento molto attuale, riusciamo comunque a fare della formazione, dell'informazione sul senso delle cose che facciamo. Certo, mi incuriosiva questo discorso del consumo. Ad esempio, un concerto, come fate a calcolare, visto che voi nel vostro calcolo mettete assieme anche, non so, gli spostamenti, eccetera, per esempio, quanto incidono gli spettatori? Bisogna capire da dove vengono, che mezzi usano, quindi state attenti a come si può arrivare a raggiungere la location del concerto, e poi se si può capire quanto un concerto, quanti alberi servono per parificare il consumo di un concerto, se avete fatto questo calcolo. Sì, sì, siamo partiti proprio da questo calcolo. Il concerto è, dicevamo, l'evento di punta, no? Quello più visibile. Naturalmente il numero di spettatori è facilmente calcolabile in base a degli studi statistici, soprattutto, che dipendono dal luogo dove si svolge il concerto, se è in centro città piuttosto che in periferia o sopra un monte, e quindi dalla facilità di raggiungerlo. E anche dal tipo di pubblicità che si fa per un concerto, se è fatta via mail, se è fatta con distribuzione di volantini, pubblicità radiofonica, quindi si riesce a capire in che percentuale il pubblico che partecipa è arrivato da posti entro i 10 km piuttosto che dal bacino provinciale o regionale, a seconda quindi dell'entità del concerto, della location e anche della valenza del concerto. Nello specifico abbiamo fatto un anno fa un concerto in fiera a Padova per la settimana dell'ecologia e la risonanza dell'evento era regionale e in base a questo dato abbiamo calcolato che la percentuale, un 20% dei partecipanti arrivava da fuori città, da più di 30-40 km di distanza. In base ad altri dati statistici sappiamo qual è la distribuzione dei mezzi utilizzati in termini di metano piuttosto che gasolio, benzina. Poi i conti si fanno presto a farli. Ecco, voi calcolate anche un'altra cosa che è particolare ma effettivamente molto vera: quante bottigliette d'acqua sono distribuite durante il concerto e anche se c'è una raccolta differenziata. È verissimo, è verissimo, è verissimo. Ti do un dato, guarda, una bottiglia da mezzo litro d'acqua pesa 15 grammi di anidride carbonica equivalente. Una bottiglia di plastica. Una bottiglia di plastica. Anche se viene riciclata? Anche se viene riciclata, perché ecco, il fatto di riciclarla porta questo valore di 15 grammi di CO2. Se noi semplicemente la gettassimo nel secco, e questo aggraverebbe il peso della CO2 emessa, perché ci vorrebbe una quantità di energia per poi smaltirla questa bottiglietta d'acqua. Infatti il calcolo delle CO2 emesse parte dal ragionamento che l'utilizzo di una bottiglia d'acqua implica averla dovuta costruire, oltre che utilizzare, e poi anche doverla smaltire. E quindi una parte importante, ad esempio, è quella del riciclo dei rifiuti. Noi all'interno dei palazzetti o dei luoghi dove ci esibiamo allestiamo delle piccole isole ecologiche dove il pubblico, anche gli artisti, possono differenziare i rifiuti, che abbatte notevolmente l'impatto ambientale dell'attività. Ecco, uno dei punti forse che impediscono magari di avere queste attenzioni per gli organizzatori spesso sono il problema dei costi. Io vedo in giro, anche girando per le sagre, molto più spesso si trovano adesso magari l'utilizzo di stoviglie biodegradabili, raccolte differenziate, a volte anche addirittura piatti in ceramica che poi vengono lavati. Mi pare che ci sia una maggior attenzione a questo, però i costi? I costi purtroppo aumentano. I costi che noi facciamo sostenere all'associazione sono zero e anzi, se tu hai un'attenzione all'ambiente li riduci, perché se chiudi l'acqua quando sei a casa anziché lasciare aperto il rubinetto riduci i costi dell'acqua. E certo, soluzioni tipo quelle legate all'utilizzo di materiale riciclabile purtroppo sono a carico dell'organizzazione, che deve comprare del materiale più costoso. E però la soluzione potrebbe non essere quella di dotarsi di un materiale riciclabile, ma fare delle attività di sensibilizzazione ai partecipanti in maniera tale che differenzino il materiale che stanno usando. Io posso anche avere delle bottigliette di plastica, ripeto, non riciclabile, ma depositarle nel luogo giusto. Benissimo, dobbiamo un po' chiudere la trasmissione, però prima vorrei che dessimo le due più vicine date dei concerti del Movie Chorus, se qualcuno vuole assistere ad un concerto ecosostenibile, e anche il sito internet dove si possono avere delle informazioni. Guarda, allora le prossime due date sono sabato 20 dicembre in chiesa Rubano, c'è il concerto di Natale, e domenica 21 alle 17 a Campodoro, mentre sabato è alle 9 di sera. Poi c'è anche il concertone di Natale al Geox, quest'anno il 27 ci hanno invitato, magari proprio perché siamo il primo coro ecosostenibile d'Italia, boh. Forse per questo. Sito internet www.moviechorus, scritto movie, chorus.it. E il sito internet www.coineco.it. Con la prima C è in realtà è una K, Coineco, la seconda è una C. Esattamente, grazie. Grazie. Concludiamo la trasmissione con un paio di notizie. I 7 gruppi di lavoro di Bionet, la rete regionale per la conservazione e caratterizzazione della biodiversità voluta 2 anni fa dalla Regione Veneto, ha appena pubblicato in altrettanti opuscoli le azioni e gli studi finora svolti. La rete ha l'obiettivo di recuperare, conservare e caratterizzare la diversità genetica di razze e varietà di specie vegetali, nonché di salvaguardare la biodiversità. I 7 opuscoli sono scaricabili già dal sito internet www.venetoagricoltura.org e in sintesi si occupano di conservazione di alcuni vitigni caratteristici del patrimonio viticolo veneto, inseriti tra le varietà locali a rischio di erosione genetica, come in particolare la bianchetta trevigiana, cabrusina, dindarella, forsellina, oseleta, pinella e turchetta. Per la parte orticola sono state prese in considerazione varietà locali come il broccolo fiolaro di Creazzo, il broccolo di Bassano, il fagiolo di Posina e il fagiolo Jalette, nonché il pomodoro Nasone e l'asparago Montine, mentre per i cereali si è lavorato su antiche varietà di orzo e mais. Il gruppo Bovini ha rivolto l'attenzione alla burlina, razza bovina autoctona del Veneto, di cui si è fatta anche l'analisi dello stato degli allevamenti. Passiamo alla conferenza stampa di fine anno tenutasi lunedì 15 dicembre dell'assessorato all'ambiente della Regione Veneto, che ha fatto il punto anche sullo stato dei lavori per la mitigazione del rischio idraulico e geologico. Visti i limitati fondi a disposizione, la Regione si sta per ora occupando dei principali nodi interessati anche da recenti fenomeni alluvionali, ovvero i bacini del sistema Alpone, affluente dell'Adige, del sistema Brenta, Bacchiglione, Gorzone e del bacino scolante nella laguna di Venezia. Nel corso del 2015 partiranno i lavori dei bacini di laminazione sul torrente Alpone, Muson e Tramigna, per i quali le procedure di appalto sono in gran parte concluse. Individuate le risorse necessarie, a breve partiranno anche le procedure di appalto per i bacini sul Bacchiglione, tra Vicenza e Caldogno, sul fiume Agno a Sant'Urbano e Vighezzolo d'Este, sul fiume Livenza nella zona di Pra dei Gai a Porto Buffolè e Mansuè e sul fiume Monticano a Fontanelle di Treviso. Si prevedono lavori per un importo totale di 2 miliardi e 607 milioni di euro, cui si aggiungono 125 milioni di euro per il dissesto geologico e quello idraulico e forestale. Anche per questa settimana è tutto, con il quadrifoglio vi diamo appuntamento alla prossima, ci potete riascoltare sul sito internet www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato il quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.